passeggiare fra la gente insieme con lei, mentre c'è chi pensa già che di Diana il padre sei. Ed ogni volta dover dire che tua figlia lei non è. Oh, fuggi via da lei, Diana. Capricciosa, bionda rosa, morbidosa, poi golosa, divertente, contendente. E tu, e tu, e tu che non ti accorgi che lei sta cuocendoti a fuoco lento, lento. Anche se poi chi ama di più fra voi due è ancora lei. I don't care. Finché un giorno ti risveglierai come un pugile un po' suonato dal gran vuoto che ti ha lasciato. E tu, e tu, tu pare non ti accorgi che non sta cuocendo soltanto me, e c'è a quel punto ormai anche con te. Forse ammetterlo tu non vuoi, e sono certo che nei panni miei vorrei stare vicino a lei, te ne freghi degli anni tuoi. Già io mi vedo in un caffè fra la gente insieme con lei, mentre il barman già pensa che un bel giorno poi finirà. Come pugili un po' suonati